Eagles è una riqualificazione fatta ad arte, visto che si parla tanto di riqualificazioni e di progetti sugli spazi. Questa è una riqualificazione fatta dal basso e rifatta secondo le regole di XM24, quindi è XM24 che decide di restare al nostro posto e decide di darsi un vestito nuovo, cioè di ripitturare le mura interne e farlo in una manifestazione collettiva con un sacco di artisti che insomma ridaranno collettivamente vita, nuova vita ai muri di XM24 al suo interno soprattutto. A proposito di muri di XM24, insomma, l'anno scorso XM è passata all'onore delle cronache nazionali per il gesto di Blu, quindi insomma tu dicevi prima con le regole di XM24, e questo c'entra molto anche con il discorso che si fa sulla street art. Sì, naturalmente le regole di XM24 sono la massima libertà espressiva degli artisti che partecipano e semplicemente la condivisione collettiva degli obiettivi e diciamo della metodologia, cioè che tutti insieme decideranno l'oggetto, il tema da darsi e una coerenza stilistica. Per il resto regole non ce ne sono. Naturalmente sui muri di XM c'è un'attenzione particolare, visto tutto quello che è successo con la storia di Blu, ma anche con il fatto appunto di utilizzare i muri per comunicare le istanze che vengono portate avanti in quello spazio. Però diciamo rispetto a quella storia lì, la manifestazione dell'8 luglio non c'entra. Rispetto allo sfratto, cioè rispetto alla lettera che ci chiede di abbandonare i locali, non è niente, perché per noi continuiamo a fare la nostra attività nonostante quella lettera o quelle dichiarazioni che fanno e non fanno sui giornali. C'era l'esigenza di ridare una nuova veste XM, ci piace farlo collettivamente perché è così che ci piace fare le cose, e lo rifacciamo attraverso una riqualificazione fatta ad arte, per dimostrare anche che c'è un modo che non passa attraverso il loro tipo di rigenerazione urbana per rimettere a posto le cose senza per forza doverci mettere in mezzo il profitto. Questa iniziativa si terrà l'8 e il 9 luglio e nella presentazione ci sono due parole chiave: colore e musica. Sì, perché c'è anche previsto un live set, cioè ci saranno dei concerti che accompagneranno dal pomeriggio di sabato 8 luglio la manifestazione, con delle persone che suoneranno, con dei gruppi che suoneranno nell'orto, che daranno, insomma, accompagneranno gli artisti che dipingono e chi vuole venire a vedere fino alla mezzanotte, insomma. Anche in questo caso, anche per gli artisti, abbiamo scelto di non mettere i nomi, come nel caso degli artisti che dipingiano sui muri, proprio per una questione di collettivizzare il gesto artistico e quindi non puntare su dei nomi di punta, ma dire che c'è questo tipo di manifestazione e chi vuole viene a vedere questo gesto collettivo, insomma, tanto artistico muralista quanto musicale. Quindi insomma un altro concetto proprio di, come dire, riqualificazione che non passa dal profitto e che non punta sui personalismi, riassumendo. Esatto, hai detto meglio di come avrei potuto dirlo. Sì, non passa dal profitto, non passa dai personalismi artistici, nonostante questo penso che verrà una figata.